Unità 1. Per capire. Traccia 3. Ciao, bella festa, vero? Sì, è davvero bella, poi c'è un sacco di gente. Conosci la festeggiata? No, non la conosco, ma sono venuta con un amico che la conosce bene. È da molto che sei qui? No, sono appena arrivata, saranno 10 minuti. E come ti chiami? Mi chiamo Rosa, piacere. Io sono Stefano, ciao, di dove sei? Abito in provincia di Biella, a Cossato, e tu? Io abito a Torino da qualche anno, perché lavoro in una società di Torino. Ma sono siciliano, di Paichino, che è un piccolo paese, l'hai mai sentito? Ma certo, non è il paese della Sicilia che è più vicino all'Africa? Quello dei famosi pomodori? Sì, bravo, indovinato. Sei qui da sola? No, sono venuta appunto con questo mio amico che è un ragazzo francese che abita nel mio stesso palazzo, però adesso è andato a bere qualcosa con un'altra amica e non lo vedo. Ah, ho capito. E quanti anni hai? Ho 30 anni, e tu? Prova a indovinare. 22 forse? No, non esagerare, 25. Ah, sembri più giovane. Che lavoro fai? Sono ingegnere in una multinazionale. Ah, ecco che arrivano i miei amici. Vieni che te li presento. Allora, questo è Jean e lei è Christine. Piacere, Stefano. Ciao, sono Jean. Scusa, puoi ripetere il tuo nome? Non ho capito. Sono Jean, sono francese. Di dove? Sono di Parigi. Ma sono qui per un po' in Italia, perché lavoro come giornalista. Ah, giornalista. Di cosa ti occupi in particolare? Sport, musica? Mi occupo di sport. Faccio il corrispondente sportivo. Interessante. Sì, molto. Anche Christine è straniera. Ah sì, di dove sei? Sono tedesca, sono nata in Baviera, ma ho vissuto per tanti anni a Cologna. E adesso sono qui a Torino perché mio marito è italiano. E tu, lavori o studi? Insegno tedesco in una scuola privata.